Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Visto la natura del capo di accusa, cioè o tutte e due sono colpevoli o tutte e due sono innocenti. Non è possibile che uno sia colpevole e l'altro no. Un unico destino per me e il cavaliere, dice dall'altra parte della Manica. È stato il creatore della galassia delle società estere di Fininvest, avvocato del Premier, testimone in alcuni suoi processi e poi suo coimputato a Milano in un procedimento per corruzione in atti giudiziari. Alla vigilia del verdetto d'appello, ma solo per lui, parla l'avvocato inglese David Donald Mills McKenzie. Parla, respinge le accuse, ma un messaggio soprattutto fa arrivare da Londra. O tutti e due condannati o entrambi assolti, considerando l'accusa per corruzione. Il percorso giudiziario di David Mills e di Silvio Berlusconi è stato separato dal lodo Alfano, la legge che bloccava i processi alle quattro alte cariche dello Stato, bocciata poi dalla Consulta perché incostituzionale. Ora anche il processo a carico del Premier ricomincerà, ma dovrà ripartire quasi da zero e davanti ad una nuova Corte, dopo che la decima sezione del Tribunale Penale di Milano, presieduta da Nicoletta Gandus, si è già espressa sulla vicenda, condannando a febbraio David Mills a 4 anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari. Ora si dovrà tenere un'udienza in cui il tribunale si spoglierà formalmente della competenza sul caso per passarla ad altri giudici davanti ai quali gran parte dell'attività istruttoria dovrà essere ripetuta, mentre la prescrizione scorre velocemente verso la scadenza di febbraio-marzo 2010. Prescrizione quasi certa dunque per il Premier, mentre per David Mills, dopo la condanna in primo grado, si sta celebrando l'appello. La politica non c'entra con la giustizia, sono fiducioso, manda a dire l'avvocato inglese. Secondo me, per la mia situazione cambia poco, anzi niente, perché il mio processo, se ho capito bene, è distinto e diverso dal suo, e quindi il suo andava avanti prima o poi comunque, adesso andrà avanti prima anziché poi. Certo, però in primo grado lei è stato condannato, considerando la tipologia del reato di cui viene accusato, sì. Il fatto che ci sia un processo anche per l'altro coimputato, dal suo punto di vista riesce a spiegare meglio le situazioni? È questo che lei spera? Sì, beh, perché ovviamente sarebbe assurdo, completamente illogico, se uno era condannato e l'altro assolto. In che sarebbe senso? Ma sarebbe, visto la natura del capo di accusa, sarebbe, cioè, o tutte e due sono colpevoli o tutte e due sono innocenti. Non è possibile che uno sia colpevole e l'altro no. Considerando che si parla appunto di corruzione. Sì, esattamente. E siccome io so, come un fatto matematico, che il dottor Berlusconi non ci entra assolutamente in questa cosa, non capisco come è possibile che lui possa essere condannato. E quindi per questo lei spera che si chiarisca anche per lei, che il verdetto d'appello possa essere opposto rispetto a quello di primo grado? Assolutamente, perché abbiamo fatto, cioè, le motivazioni dell'appello sono molteplici. L'appello è stato molto ben fatto dall'avvocato Cecconi e sono estremamente fortunato che lui sia mio avvocato, e quindi sono sempre stato fiducioso nel sistema legale italiano, perché penso che in tutto il mondo l'innocenza è sempre una buona difesa. Però lei in primo grado, dopo la condanna, parlò di una vicenda politica, di una sentenza che aveva a che fare con la politica. Ma io non non posso giudicare questo. È stato detto da molti altri e sicuramente la motivazione dell'appello, cioè le motivazioni sono, come dico, sono molteplici, e secondo me è chiaro che il verdetto a primo grado era, cioè, composto da moltissimi difetti. Lei però appunto teme del fatto che il fatto che Berlusconi sia l'altro coimputato ci possa essere polemiche politiche? No, io non sono capace di giudicare su queste cose, io sono inglese, cioè non sta a me parlare della politica italiana. Io ho sempre avuto fiducia nel fatto che prima o poi verrò assolto perché sono innocente. E i fatti sono chiari, quindi non posso dire di più. Per Mills, il sostituto procuratore generale Laura Bertolei Viale ha chiesto la conferma anche in secondo grado della condanna, perché la corruzione è stata dimostrata, ha detto, e lui non merita la riduzione di pena. Parere contrario anche all'audizione dell'ex coimputato Silvio Berlusconi, audizione chiesta dalla difesa di Mills perché sarebbe assurdo prescindere dall'imputato dello stesso fatto, ha detto Alessio Lanzi, difensore insieme a Federico Cecconi dell'avvocato inglese. Non ci fu corruzione, ma comunque il reato sarebbe già prescritto perché sarebbe corruzione semplice e non in atti giudiziari o al massimo falsa testimonianza. Questa è la tesi sostenuta dalla difesa, che in aula contesta che proprio nei processi incriminati per la deposizione di Mills Berlusconi sia stato condannato in primo grado, salvo poi essere assolto un anno dopo. Non ha avuto delle reticenze penalmente legali, ma soprattutto è stato condannato nei due processi relativamente ai quali si sarebbe realizzata la corruzione del doppio giudizio. Quindi parliamo di una corruzione susseguente relativa a una situazione già passata in cui Berlusconi ha avuto danni gravi, irreparabili se non fossero venute dopo, un anno dopo, le sentenze di assoluzione. Oliberian e Guardia di Finanza, questi sono i due processi in cui, secondo l'accusa, David Mills avrebbe reso falsa testimonianza per favorire Berlusconi. È in queste due circostanze che l'avvocato inglese avrebbe affrontato quei tricky corners, incroci pericolosi, per togliere Mr. B da un mare di guai. Per questo avrebbe ricevuto un gift da $600,000, come scrive lo stesso Mills in una lettera al suo commercialista inglese. Lettera che il PM Fabio De Pasquale e poi anche il Tribunale di primo grado nella sentenza ha considerato praticamente una confessione, la prova regina della corruzione in atti giudiziari contestata a Mills e Berlusconi. Ecco il testo quasi integrale tradotto in italiano della missiva acquisita agli atti. Caro Bob, in breve i fatti rilevanti si possono così riassumere. Nel 1996 mi sono ritrovato con un dividendo di circa 1,5 milioni di sterline, al netto delle tasse e degli onorari dovuti, proveniente dalle società di Mr. B. Ogni mia azione è stata condotta a titolo personale, io mi sono accollato tutti i rischi tenendone lontani i miei soci. Nel 1998, 1999 e 2000 lavorai autonomamente ed era evidente che i processi sarebbero proseguiti, ci sarebbero stati avvocati da pagare e ci sarebbe stato il rischio di essere accusato di qualcosa, che è proprio quello che sta per succedere ora in seguito all'ultima indagine della quale sei al corrente. Io mi sono tenuto in stretto contatto con le persone di B e loro conoscevano la mia situazione. Erano consapevoli, in particolare, di come i miei soci si fossero intascati la maggior parte del dividendo. Sapevano bene che il modo in cui io avevo reso la mia testimonianza, non ho mentito, non ho superato curve pericolose, per dirla in modo delicato, avesse tenuto Mr. B fuori da un mare di guai, nei quali l'avrei gettato solo se avessi detto tutto quello che sapevo. All'incirca alla fine del 1999 mi fu detto che avrei ricevuto dei soldi, che avrei dovuto considerare come un prestito a lungo termine o un regalo, $600,000 furono messi in un hedge fund e mi fu detto che sarebbero stati a mia disposizione se ne avessi avuto bisogno. Consideravo il pagamento come un regalo, di cos'altro poteva trattarsi. Non ero un loro dipendente, non li rappresentavo, non stavo facendo nulla per loro. Avevo già reso la mia testimonianza, ma sussisteva ancora il rischio di futuri costi legali, così come ce n'erano già stati, e di una grossa dose di ansia, che c'è certamente stata. Dal momento che ero sicuro del fatto che la mia posizione fiscale relativamente al capital gain fosse complessivamente negativa, stupidamente non ho dichiarato nessuna transazione. Se qualcuna di esse fosse guardata da vicino, sono ovviamente preoccupato di come comportarmi e gestire al meglio questa situazione. Sinceramente, David Mills. Storielle. Storiacce. David Mills mentì per coprire Silvio Berlusconi. Scrivono questo i giudici della 10ª sezione penale del Tribunale di Milano, che hanno condannato a febbraio l'avvocato inglese a 4 anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari. So matematicamente che Berlusconi non c'entra, ma o entrambi assolti o entrambi condannati. Questo ha detto David Mills nella prima parte della rubrica, ripercorrendo il percorso giudiziario inizialmente congiunto con il Premier, il cui procedimento ha poi seguito invece strade autonome in virtù del lodo Alfano. E ora ricomincerà, mentre quello a carico di Mills è già alle soglie del verdetto d'appello. È una storia di vecchi processi, di scatole finanziarie estere, di soldi che si spostano e si confondono. Il processo a carico dell'avvocato inglese, un processo che, secondo il PM del primo grado, aveva la sua prova regina in una lettera sequestrata a Mills. Una lettera che abbiamo letto nella prima parte, in cui parla di un gift di Mr. B per toglierlo da un mare di guai. Non c'è alcuna confessione, né c'è la prova della falsa testimonianza, ci dice ora Mills. Ormai tutti in Italia conoscono la sua famosa lettera, il gift di Mr. B. Che cosa ci dice? Sì. No, ma quella lettera non contiene nessuna ammissione che io ho ricevuto soldi dal signor Berlusconi, no, né contiene nessuna ammissione che io abbia dato un'evidenza falsa, non contiene nessuna evidenza della corruzione, cioè non è difficile leggere quella lettera. E ovviamente come tutti sanno, la lettera non era mirata a fare una descrizione dei fatti, era mirata a fare altre cose, però non contiene quelle ammissioni, non può essere interpretata come una ammissione né di corruzione né di falsa evidenza, niente così. Erano diverse. Che cos'erano quei tricky corners? No, ma cioè, io non voglio parlare di quella lettera perché sarà spiegata in un altro, cioè è troppo complicato spiegare al telefono. Io ho già dato, io già in una memoria che ho dato ai giudici di primo grado, ho già fatto una completa completa spiegazione di quella lettera, i motivi per cui l'ho scritta e lo scopo che doveva servire, eccetera eccetera. Non lo ripeto adesso, è tutto lì nella mia memoria di gennaio. Ragioni fiscali, secondo la difesa, portarono Mills a scrivere quelle parole nella lettera al suo commercialista. Ragioni di tasse e di leggi inglesi. E anche questo c'è nelle motivazioni d'appello presentate dalla difesa. Ma ben altra invece è l'interpretazione che anche in secondo grado l'accusa fa di quella lettera. È la prova, ritengono, della corruzione e del fatto che Mills mentì nei processi per coprire Silvio Berlusconi. GR24, il sole 24 ore. L'avvocato Mills corrotto da Berlusconi, scrivono i giudici. Il premier scandaloso, l'opposizione rinuncia al lodo Alfano. I giudici di Milano depositano le motivazioni della sentenza del 17 febbraio scorso che ha portato alla condanna di David Mills. Scrivono che l'avvocato inglese ha agito da falso testimone per consentire a Silvio Berlusconi e al gruppo Fininvest l'impunità dalle accuse o almeno il mantenimento degli ingenti profitti realizzati attraverso operazioni finanziarie illecite. È per questo che Mills è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, condannato perché corrotto. L'accusa del PM Fabio De Pasquale parla di $600,000 che Mills avrebbe ricevuto dall'entourage di Berlusconi nel 98 per rilasciare dichiarazioni reticenti in due vecchi processi milanesi, quello sulla corruzione della Guardia di Finanza e il processo Oliberian. Dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, il 19 maggio, l'opposizione chiese al premier di rinunciare al lodo Alfano e di farsi processare, lodo poi bocciato dalla Consulta ad ottobre. Alle parole dei giudici Berlusconi risponde andando su tutte le furie e preannunciando dall'Aquila dichiarazioni in Parlamento poi mai più fatte. Non c'è stato nessun versamento di nessuno al signor Mills. Avevamo ricusato questo giudice che in tutte le situazioni si è messo in piazza per criticare l'operato del governo. È una cosa scandalosa. Vedrete cosa dirò in Parlamento. Il processo Mills era uno dei tre sospesi in virtù del lodo Alfano e anche quello che impensieriva di più politicamente l'entourage del premier. Ma Mills verrà anche presto ascoltato come teste in un processo a carico della parlamentare della maggioranza Berruti, accusato di riciclaggio in relazione a presunte irregolarità nella compravendita dei diritti televisivi Mediaset. Filone per cui anche lo stesso premier è imputato, ma in un altro processo che era tra quelli congelati in virtù del lodo Alfano, mentre ancora un nuovo rivolo della stessa questione di compravendita di diritti TV, ribattezzato Media Trade, è prossimo alla chiusura sempre a Milano. Ma le vicende giudiziarie hanno provocato un terremoto anche oltre la Manica. L'allora moglie di David Mills, Tessa Jowell, all'inizio del processo in Italia era il ministro della cultura dell'esecutivo di Tony Blair. E le vicende giudiziarie italiane fecero tremare anche questo pezzo del governo britannico. In Italia si fiondarono inviati delle testate inglesi, raccontarono di documenti vari in cui compariva anche la firma della moglie di Mills, andarono a spulciare gli atti del processo a carico dell'avvocato inglese per cercare quelli che potessero avere delle ripercussioni anche sul fronte britannico. E dunque anche il caso giudiziario ebbe molto probabilmente un ruolo nella futura separazione di David Mills e Tessa Jowell. Evidentemente mi ha creato tantissimi problemi, però basta così per ora. Non vuole dire niente, neanche se la stima su sua moglie. No, ovviamente il mio coinvolgimento ha creato un sacco di problemi di natura personale, di lavoro e su tanti livelli, ma basta dire così. Non vuole dire di più l'avvocato, aspetta la decisione della Corte d'Appello di Milano che dovrà stabilire se condannarlo di nuovo o meno o se accogliere nuove documentazioni ed eventualmente ascoltare altri teste come Silvio Berlusconi, così come è stato chiesto dalla difesa di Mills. Il 27 ottobre la Corte d'Appello dovrebbe entrare in Camera di Consiglio per pronunciare il suo verdetto. Lui, David Mills, aspetta in Gran Bretagna e centellina le parole, a cui talvolta, con humor anglosassone, preferisce una risata. A lei aver incrociato la Fininvest, aver lavorato per Berlusconi, adesso le si è tradotto anche in una serie di grane con la giustizia italiana. Sì, però devo dire che sì, è vero, ma nella vita succedono molte cose e in molte cose sono stato molto fortunato, quindi... Quindi, insomma, non ha nessun rammarico del fatto di essere stato coinvolto? No, assolutamente no. Ma lei lo sente? No. L'ha mai sentito più il Premier? Senta. Va bene, non vuole rispondere. No.